auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo da parte di Massimiliano Allegri. Tanti auguri, buon Natale a tutti i tifosi giallorossi. Buon Natale, buon anno, spero che le cose vadano sempre meglio per voi e per le vostre famiglie. Con il cuore, buone feste. Faccio gli auguri a tutti i tifosi, a tutte quelle persone che speriamo che sia un anno fantastico per tutti e forza Udinese. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, tutti convocati, anche Franco Piantanini in redazione, Robby Scaltritti in regia, perché stasera si gioca Cagliari-Juventus, Cellino permettendo, perché domani c'è tutto il resto della 18ª giornata di Serie A e perché ieri vi siete arrabbiati per questa mia provocazione. È andata benissimo Celtic-Juventus e Milan-Barcellona, il modo migliore per il Milan di uscire dalla Champions senza rimpianti. La mia è una provocazione, ma ne parliamo se volete. Questa era la mia provocazione, vi siete arrabbiati e avete scritto in tantissimi e oggi sui giornali si è aperto il dibattito su come si possono battere i fenomeni. Buon pomeriggio a Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Hai sentito la provocazione, li ha fatti arrabbiare. Io apprezzo, per me hai ragione tu. Cioè il modo migliore, però non ripartiamo da lì. No, assolutamente, perché poi dopo la gente sono tutti troppo suscettibili. Sì. Allora, partiamo dal nodo della questione, come si fermano? Io oggi ho anche fatto un pezzo sull'argomento. Catenaccio, meglio lottare con le stesse armi. Allora, Catenaccio, però ormai Catenaccio è inglese, Catenaccio c'è la versione britannica. Sì, come si dice in inglese Catenaccio? Lock, direi che è un lucchetto, cioè non so se c'è qualcosa di più, però un lock, il British Lock mi piace. British Lock. Il British Lock è così, già abbiamo sperimentato, prima col Chelsea, miracoloso, che gli ha permesso di arrivare in finale di Champions e poi di vincerla, e poi adesso quello era un Catenaccio più stiloso, insomma, già firmato, viene da Chelsea, quindi insomma, quartiere dei ricchi. Sì, no, non quello rozzo del Celtic, esatto, 47 secondi in un tempo di possesso palla. 47 secondi in un tempo di possesso palla e riesci anche a fargli un gol e ne prendi solo uno. Cioè, per me questo è, adesso voglio dire, noi siamo italiani, dobbiamo ricordarci sempre delle nostre comunque tradizioni culturali calcistiche. Cioè, da togliersi il cappello di fronte a una prestazione del genere. 47 secondi con la palla, tu riesci a fare un gol e a prendere solo uno contro Messi e compagnia, il cappello. Io credo qualcosa di irripetibile. A me ha molto divertito questa mattina la lettura dei giornali italiani. C'è la tua analisi, la terza via, e poi ne parliamo. La terza via, e fai anche l'elenco delle squadre, anche non griffate, che sono state capaci in due anni di mettere in difficoltà il Barcellona provando a giocarsela. E poi c'è chi, come Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, dice il centrocampo sarà la chiave per provare a battere i fenomeni e suggerisce a Massimiliano Allegri di copiare Mourinho e il Chelsea e poi ricorda anche lui i numeri della sfida con il Celtic. Evidentemente sono così forti che sulla carta ogni ricetta è buona. No, allora, Mourinho e il Chelsea hanno adottato per me due tattiche diverse. Cioè il Chelsea di Matteo, persona intelligente e pragmatica, dice io vado al Camp Nou, questi no, mi lisciano il pelo, dico, adesso io faccio il Catenaccio. E in più aveva però un grandissimo attaccante che si chiama Drogba. Intanto vediamo se il Milan compra Drogba, che mi sembra psicologicamente sarebbe una mossa bestiale, perché Drogba col Barça ha sempre fatto bene ed è uno significherebbe agitare il feticcio, il fantasma. Esatto, non sarebbe male. Poi siamo in Africa, quindi è un feticcio importante. Sai cosa mi ricorderebbe dal punto di vista psicologico? Io ero a Barcellona la vigilia della semifinale con l'Inter e Mourinho si presentò in sala stampa al Camp Nou dicendogli per voi questo è un incubo, perché voi dovete andare a Madrid. È un'ossessione perché voi dovete andare a Madrid a vincerla ed è l'unica occasione che avete nella vita di vincerla là. Non so cosa vuol dire, perché io ho piantato la maglia, lui ha vinto la Coppa del Re con loro quando era abbassato anche lo scudo del Barça, dicendo vi amerò per sempre del Barça, lui disse, grandissimo Mourinho, come cambiano i tempi, sì. Vince una Coppa del Re contro il Betis. Però, cioè, torniamo a noi. Allora, lui il modello del Real Madrid per me è il meno percorribile, perché Madrid è uno squadrone, Allora, il male di dare dei giocatori che applicano quello che qua chiamano quello diretto, no? Il gioco diretto alla perfezione. Sì, per non tutti sono capaci di far fare 90 metri alla palla in verticale in meno di 9 secondi come fa Real Madrid. Questa è la questione. Tu hai giocatori come Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Osil, lo stesso Pepe, anche Sergio Ramos, che in un attimo ti portano sulla palla e mettono teoricamente Ronaldo o Benzema davanti alla porta. Noi, nel senso, di Milan, anche se poi non sono del Milan, però, noi italiani che ci proviamo a febbraio. Esatto, no, perché si tifa sempre per le squadre italiane. Noi non ce li abbiamo questi giocatori, per cui bisogna guardare, per quello io ho fatto quell'elenco di squadre decisamente poco nobili, no? Deportivo, Granada, Siviglia, che ovviamente sono peggio del Milan, però hanno una maniera di intendere il gioco che può essere utile. Cioè, loro hanno provato a giocarsela col Barça e la chiave è stata, hanno resistito fino alcuni all'80, 85, 87, 90, poi alla fine sono crollate e hanno tutte perso più o meno. Lì cosa bisogna fare? Cioè, devi andare a ci vuole grande fisico, perché devi fare una grande pressione, e poi provare, e grande tecnica, perché ti devi tenere questo benedetto pallone tra i piedi e provare a far correre quelli del Barça, perché la chiave del Barça è molto semplice: loro perdono palla oppure finisce l'azione e la recuperano in 1, 2, 5, massimo 10 secondi l'hanno già recuperata. E poi ci sono quegli spazi alle spalle dei difensori, esatto, già sfruttati da Pato un anno fa al, certo, Camp Nou. Oggi c'è il Shaarawy, che da questo punto di vista può essere anche considerato un giocatore ideale. Qualunque sia il modulo che tu utilizzi, credo che questa sia la chiave per fargli male. Però siccome Tito Villanova è un ragazzo intelligente, adesso già non usa più Dani Alves, ma usa Adriano a destra. E Adriano è uno che sa coprire, uno difensivamente molto migliore di Dani Alves. Puoi perdere qualcosa a livello offensivo, molto poco. Ricordiamoci che Adriano ha già fatto 6 gol quest'anno in Liga. E mentre dall'altra parte sì, c'è un bel buco, perché Jordi Alba ha pochi freni e tende ad andarsene via. Quindi questa è l'altra, sì, è l'altra chiave. Però se vogliamo parlare di giocatori, il giocatore chiave, per esempio, per Mourinho, alla fine lui ci ha messo un po' a capire come vincere un classico, no? Ha preso delle manite, ha preso delle gran bastonate. Il giocatore chiave è Pepe, perché Pepe è in grado di spaventare sia difesa che centrocampo del Barcellona. E una figura così il Milan non ce l'ha. Sì, ci scrivono al 349-238-6666 Roby, Yepes, Zapata e Mexes, con questi qui come li fermi, quelli del Barcellona? Allora vedi che lì si ritorna al tuo discorso iniziale, che è un buon modo, è il modo migliore per andare via. E certo, se la mettiamo così con i nomi, però bisogna sognare, bisogna puntare più in alto, sperando che... Guarda, io... La difesa ultimamente è andata meglio, cioè Milan ha vinto 6 nelle ultime 7 partite. Sì, di sicuro ha trovato una sua continuità. Ti provo a portare nella mente di Allegri, che un anno fa è stato massacrato dopo aver pareggiato 2-2 il Camp Nou, perché il Milan non può fare una partita come l'Inter di Mourinho, e poi ha provato a giocarselo, almeno ha raccontato che ha provato a giocarsela, grandi complimenti, però sono arrivate 2 sconfitte e un pareggio. Secondo te cosa gli resta dentro di questa esperienza nel momento della scelta di quale delle 2 ricette prendere? Appunto, questa è una scelta di campo. Allora, però qui deve essere, secondo me, in parte appoggiato anche, non dico dalla stampa, però dall'opinione pubblica. Perché allora, questo Milan con questi uomini, senza Drogba, così com'è, se la va a giocare, molto probabilmente ne prende 4. Allora, però dopo non ci si può lamentare, il tifoso, il giornalista non si può lamentare, cioè, siamo usciti, abbiamo preso i 4, perché allora lui ti direbbe, io ce l'avevo teoricamente un'altra carta da giocarmi, però dopo magari mi massacrate, perché vado lì a fare un semiscatenaccio o comunque vado a fare una partita, diciamo, di speculazione. E qui bisogna mettersi d'accordo. Io continuo a essere, qua mi danno del risultatista, no? Cioè noi non sappiamo questa parola, che non è male, no? Uno che punta solo al risultato, però loro hanno creato proprio il termine. Sì, siamo noi italiani che purtroppo siamo limitati, cerchiamo di vincere. È così, però noi siamo dei risultadistas, per noi conta. E io, a me piacerebbe che il Milan facesse uno scherzo a questo Barça. Io ieri in serie di sorteggio in televisione qua gli ho dato 20% di possibilità. 20%? Però, sì, però possono aumentare a seconda della, della tattica impiegata. E soprattutto in tutto questo, attenzione, abbiamo fatto questo grande discorso tattico, così dobbiamo vedere come il Barça supererà la crisi di Villanova. Sì, l'assenza, perché, l'assenza del suo tecnico. Intanto 349-238-6666, tu non ci crederai, ma si è aperto anche il dibattito su come si dice catenaccio in inglese. Qualcuno adora la definizione British lock e invece qualcun altro ti dice che catenaccio si dice chain o string. Sì, chain però è la catena per me, lock e lucchetto, chain è la catena, per cui se ne può parlare. E quindi ci teniamo British lock? Beh, perché British chain è la catena inglese, non viene meno. Io lock è proprio al bel senso, è il lucchetto, lo so. E allora vada per British lock, lo abbiamo inventato qui e... questa lista che vediamo cosa dice la gente. Gli mettiamo sul bolo. Grazie a Filippo Maria Ricci. Grazie a voi, è un piacere. Allora 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter @ tutti convocati. Cominciamo da Massimo da Caserta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Allora io accetto la sua provocazione e dico che il problema per le squadre che affrontano il Barcellona è solamente quello di avere un forte timone reverenziale. Può sembrare strano, ma per quanto mi riguarda credo che il Barcellona abbia un gioco abbastanza prevedibile, molto, molto tenuta di palla, poca verticalizzazione, ma lo fanno in modo impressionante, in modo veloce. Il fatto è che bisogna aggredirle, avere il coraggio di affrontare con spavalderia. Non andare a un campo oppure giocarci contro anche in casa come vittime sacrificate. Sì, dire. Massimo, però il Barcellona è una squadra fatta di uomini e di giocatori e possono incappare tranquillamente in una giornata poco felice. Sì, è fatto di fenomeni, Massimo, più che di uomini e giocatori, che sono uomini, su questo non c'è dubbio, e non robot, però hanno dimostrato di essere dei fenomeni. Io credo che si debba aggredirli dal punto di vista dell'atteggiamento mentale, e poi è vero che chi in questi anni è stato capace di dargli delle delusioni lo ha fatto lasciando fondamentalmente la palla a loro. È capitato all'Inter di Mourinho, è capitato al Chelsea, è capitato nel suo piccolo anche al Real Madrid di Mourinho all'inizio, quando ha vinto la finale di Supercoppa spagnola. Altri hanno provato ad aggredirli in campo e non è finita benissimo. Però è un dibattito aperto, è un dibattito interessante e che ci porteremo fino a febbraio. Scrive Gianni al 349-238-6666, poche chiacchiere, ci vuole solo fortuna. E ancora Roberto Dalodi, Drogba non potrebbe giocare, mi sembra che ci sia la Coppa d'Africa. La Coppa d'Africa in realtà potrebbe anche finire prima per la Costa d'Avorio e quindi potrebbe essere disponibile per le gare di Champions League. Certo che anche questa è una variabile importante. E poi Fede, sono juventino, non scommetto sul calcio perché lo amo troppo, però fidatevi, scommettete sul Milan che passa e poi datemi il 10%, o meglio, date il 10% della vincita in beneficenza. Enzo chiede, ma il venerdì non si parla anche di basket? Certo che si parla di basket, l'appuntamento con Dan Peterson a partire dalle 14.45. Federico da Verona, buon pomeriggio. Federico, buon pomeriggio. Prego. Volevo intervenire riguardo la questione di Mandolini. Sì, dica. Ormai non potete avere provvedimenti, per esempio, contro la curva del Livorno, che è tornato a cuore, se non sbaglio, contro le foglie, insieme a che nelle foglie si è morto più di qualche persona, e soprattutto la settimana successiva hanno fatto il coro contro il Sole. Federico, però... facciamo così, si sente malissimo, la recuperiamo, proviamo a rifare il numero, così riusciamo a capire il senso del suo intervento, perché la linea era davvero molto disturbata, richiamiamolo. Alessandro da Bologna, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Capuano, grazie. Dunque, per il secondo anno consecutivo la Juventus è vittima delle malefatte di Cellino, che l'anno scorso obbligò i tifosi della Juventus a festeggiare a Trieste in uno stadio, tra l'altro con larghi vuoti a causa dei prezzi allucinanti, e quest'anno sta facendo di peggio, perché tutto nasce da responsabilità sua, come ha detto qualche giorno fa anche un ascoltatore sardo, ricordando che da anni non paga non paga gli affitti arretrati, i lavori di ristrutturazione, e oggi poi sta cercando di... Sì, anche, diciamo, se, anche se Marco, la vicenda di Isarenas è slegata dalla lite con il comune di Cagliari per lo stadio, sì, Sant'Elia, sì. Prego. Certo, no, ma si è arrivati appunto al nuovo stadio in situazioni, diciamo, in modo molto affrettato, con tutte le conseguenze di oggi. E non pensa che sarebbe il caso in Italia, come si fa nei campionati professionistici americani e non solo, di valutare più seriamente, quando si accettano le iscrizioni dei club, non solo il risultato sportivo, ma anche obbligarli ad avere un luogo, un campo di gioco. Ma pensi che è già così nel regolamento della Lega Calcio? Tant'è vero che il Cagliari quest'anno è stato iscritto con sede con delle Trieste, sue partite interne, lo stadio di Trieste, che fra parentesi, la cosa secondo me surreale di tutta questa vicenda è che abbiamo scoperto che lo stadio di Trieste non è a norma, perché manca l'impianto di videosorveglianza, mancano i tornelli, e ad esempio la partita di questa sera con la Juventus non si gioca a Trieste perché la questura di Trieste ha detto che non si sognava nemmeno di dare l'autorizzazione a giocare Cagliari-Juventus. Quindi di che cosa stiamo parlando? È purtroppo la conferma ed è l'ennesima brutta figura che il nostro calcio esporta altrove. E poi parleremo con un collega che in questo momento credo sia in macchina per raggiungere Parma o Cagliari o Trieste, o speriamo che non abbiano spostato Cagliari-Juventus negli ultimi minuti. Grazie Marco. Riproviamo con Federico da Verona. Federico, buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio. Allora, volevo intervenire sempre sulla questione di Mandorlini. Sì. E volevo sapere intanto perché Mandorlini, appena arrivato, da quando è a Verona, è stato squalificato più di una volta, mentre quando allenava il Cluj o altre squadre non è mai stato squalificato. E questa è un'altra, sì, cosa. Non abbiamo notizie, no, di cose sul campionato romeno. Porti no, pazienza, okay, prego. Però ho capito la sua provocazione. Ok, poi l'altra cosa, perché non è stato preso nessun provvedimento contro la curva del Livorno, contro la squadra del Livorno, da quando hanno fatto il coro contro il soldato purtroppo morto in Afghanistan o contro i morti delle foibe? Perché non hanno preso non hanno fatto niente contro questa cosa? Perché hanno sbagliato, come capita purtroppo troppe volte. Hanno sbagliato. Perché allora hanno sbagliato? Però Federico... i tifosi della Juventus contro hanno insultato Balotelli, hanno insultato Pacchetti, quelli dell'Inter hanno insultato... Sì, sono stati multati, e c'è stata anche la... Non hanno fatto un caso nazionale. Mi perdoni qualsiasi Federico, cosa, mi scusi Federico, mi perdoni, perché voglio dire, io non ho nessun problema, non siamo qui a difendere nessuno, tantomeno il giudice sportivo e la Lega Calcio. Per i cori dei tifosi juventini su Balotelli non solo fu fatto un caso nazionale, ma se si ricorda bene fu chiuso il settore degli ultra della Juventus per una partita, e questo accadde per due volte. In un caso la Juventus si salvò attraverso un ricorso, e nel secondo caso, se non sbaglio, scontò la squalifica in Juventus Lecce, adesso però sto andando a memoria. Quanto al meccanismo delle multe, lo ha spiegato qualche settimana fa i microfoni di Radio 24 il numero uno del Viminale, che si occupa delle manifestazioni sportive. Le multe sono basse perché in passato gli ultra hanno tenuto in ostaggio le società, quando le multe e le squalifiche erano alte e automatiche, e quindi si cerca di incentivare i club a collaborare per evitare che siano sotto ricatto dagli ultra. So che è brutto dirlo, ma è così. Poi è evidente che fa impressione leggere di multe da poche migliaia di euro per atteggiamenti aberranti, come possono essere ad esempio anche gli striscioni su Pessotto che si sono visti nelle scorse settimane. Grazie comunque. Marco D'Arezzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Auguri innanzitutto per le prossime festività. Poi ricambiati. Una piccola considerazione. Dunque, secondo me bisognerebbe cambiare le modalità di effettuazione dei sorteggi, perché francamente pensare al Barcellona fuori dagli ottavi veramente mi dispiace un po'. Pensare al Barcellona fuori dagli ottavi, lei come provocazione va oltre. Ad oltre, sì. Si sono arrabbiati con me, chissà con lei. Straconvinto. Che vince il Milan. Non vince il Milan perché non ha nulla da perdere assolutamente. L'anno scorso aveva molto di più da perdere, perché con Nesta, Seedorf, Gattuso, Ibra, Thiago, forse il Milan pensava di giocarcela pari. Poi alla fine i vari Mexes e company hanno combinato quella frittata insieme all'arbitro a Barcellona. Sì, Kuiper. Sì, esatto. Quest'anno il Milan non ha nulla da perdere. Io sono assolutamente convinto che il Milan quest'anno farà, sarà la sorpresa degli ottavi. Una consolazione è che 15 squadre su 16 saranno per il Milan. Ah beh, su questo non c'è, ma su questo non c'è dubbio. Temo però, Marco, che non basti. Grazie. Marco Ansaldo, buon pomeriggio, inviato della Stampa. Buon pomeriggio, ciao. Hai sentito, Barcellona che si lamenta. Questo sorteggio va riscritto, ha detto il nostro amico, perché è impensabile avere il Barcellona fuori dalla Champions agli ottavi di finale. Ovviamente era una provocazione. Beh sì, abbastanza pesante come provocazione. Dove stai andando? Sono a Parma. Sei a Parma, quindi abbiamo la certezza che Cagliari Juve si gioca a Parma. Ma non per la mia presenza, spero. No, però se sei lì abbiamo qualche garanzia in più. Notizie meteo, perché in tanti si erano stupiti della scelta di Parma, considerato che siamo al 21 dicembre e anche un piccolo rischio di nebbia non va escluso. Ma guarda, io arrivando da Torino in auto nebbia ne ho trovata poca, in compenso c'è neve da Bologna in giù, quindi come vedi non è che ci sia poi tutta una grande garanzia da un punto di vista climatico in questo paese che ormai ha perso dei punti di riferimento, quindi può darsi la nebbia salga dopo, però per il momento mi sembra che ci sia freddo classico dell'inverno, ma non una condizione climatica tale da impedire la partita. Mi dici cosa ne pensi delle parole di Cellino di ieri, che ha detto sarebbe bastata l'autorizzazione della Juventus e in due ore avremmo riportato la partita in Sardegna. Evidentemente a loro faceva comodo così. Non lo so poi se le cose stiano realmente in questo modo. Cioè, Cellino capisco anche che abbia dei sospetti legittimi. Il punto è che secondo me è incredibile che ci sia una situazione come quella di Cagliari a metà del campionato. Quindi alcune partite le puoi fare, altre non le puoi fare, altre devi aspettare l'autorizzazione o comunque la firma della società avversaria. Cioè, io credo che un campionato normale, un paese normale, un campionato importante come il campionato di calcio in Serie A dovrebbe partire con delle garanzie di stadi che siano ben definite. Sì, ad esempio il rispetto di quello che c'è scritto nel regolamento, ne parlavamo prima anche con un amico da casa che pretende che le società indichino uno stadio per le partite in casa, e abbiamo scoperto che il Cagliari, che era iscritto con lo stadio Nereo Rocco di Trieste, aveva evidentemente segnalato uno stadio non a norma, perché la questura ha detto chiaramente che Cagliari-Juventus non si sarebbe mai potuto giocare a Trieste per questioni di tornelli, di videosorveglianza. Al che mi viene da dire, di che cosa si sta parlando? No, e soprattutto mi viene da dire, ma come mai Cellino, tra l'altro, se non sbaglio, è l'uomo della Lega all'interno della Federcalcio? Cioè, com'è possibile che un presidente che ha avuto molti meriti dal punto di vista del mantenimento della propria società a un buon livello, però da un punto di vista politico sta facendo più danni della grandine, si abbia certi ruoli, ecco, questo vorrei capire. Certo, intanto poi ti saluto, c'è l'operazione fuga di Conte, ho avuto l'impressione che temesse molto un calo di concentrazione dei suoi. Sì, questo senz'altro, sai, ultima partita dell'anno, una situazione di campionato che si è messa ormai in maniera molto positiva per la Juventus, la possibilità di una giornata poco concentrata, cioè la Juventus è una squadra forte quando riesce a essere molto concentrata, altrimenti perde parecchio delle proprie qualità, quindi il rischio visto da Conte esiste e secondo me è giusto che abbia cercato di farlo capire, di mettere le mani avanti da subito. Detto questo, credo anche che la Juventus sia nelle condizioni di allungare. Sì, e di andare a dormire a più 10 sull'Inter e poi a cascata su tutti gli altri, che sarebbe certamente anche mettere una pressione psicologica forte su chi insegue. Grazie Marco Ansaldo. Ok, ciao. (800) 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Oggi è vigilia di campionato, si giocano due partite in questo venerdì sera e poi domani il resto della giornata che si chiude con Roma-Milan. E allora alcune voci della vigilia, partiamo da Stramaccioni prima di Inter-Genoa. Io posso parlare per noi, paragoni con la squadra prima in classifica li ho sempre fugati, perché non sono in questo momento, non sono due situazioni diverse. Noi siamo alla ricerca, abbiamo secondo me incanalato la nostra squadra in un percorso, adesso siamo alla ricerca della continuità dei risultati. E io ricordo la Juventus lo scorso anno, che era dietro il Milan, ad esempio, riusciva spesso, anche non vincendo, però era difficile che perdesse, ha fatto tanti pareggi anche la prima. Noi stiamo cercando in questo di trovare continuità. E poi ha detto anche: a Roma ci siamo sistemati nell'intervallo, se avessimo vinto saremmo stati per tutti dei fenomeni. La vigilia di Mazzarri, il Napoli. I punti fatti dalla squadra fino ad ora sono sempre 6 più dell'anno scorso, quindi l'andamento della squadra è di un certo tipo anche quest'anno. Le vittorie, le sconfitte, i pareggi sono stati distribuiti in un modo un po' diverso. Complessivamente io vedo che non abbiamo fatto male in campionato, anzi, secondo me ancora abbastanza bene. Questa è la visione generale. Per quanto mi hai chiesto, e vedere se i ragazzi hanno, se abbiamo individuato bene quali sono i problemi, è chiaro che se ci sono dei problemi che non si possono risolvere in 2 giorni, dato che il calendario ci ha riservato di giocare domenica notte, mercoledì notte e addirittura sabato pomeriggio. E poi Mazzarri ha detto anche: il Napoli non è in crisi, e a chi gli chiedeva se si fosse pentito delle sue affermazioni sull'anno sabbatico da prendersi, ha detto: è ridicolo farmi questa domanda dopo 2 sconfitte, perché non me l'avete fatta dopo 3 vittorie consecutive. Sentiamo Zeman, la vigilia di Roma-Milan. Vabbè, Milan, a parte il periodo buono che sta attraversando, perché ha fatto risultati importanti, per me è sempre Milan. Io dico che Milan sono da anni e anni che sta giocando per vertice. L'anno scorso ha perso il campionato per ultime partite, quindi è una squadra importante con giocatori importanti. È vero che sono andati via 3 giocatori importanti, però si è ritrovato un capocannoniere del campionato che ha sostituito praticamente Ibrahimovic sul piano di numero dei gol. E sentiamo invece Allegri su Zeman. Credo che Zeman sia uno degli allenatori più bravi, se non il più bravo, a far giocare le squadre. Ha uno sviluppo offensivo ottimo e quindi credo che sia ancora uno dei migliori tecnici, soprattutto insegnanti di calcio che ci sono in circolazione. Oh, Zeman ha anche detto: dopo la sconfitta contro il Chievo non ho parlato di arbitri per non suscitare nuove polemiche. La squadra non ha avuto quello che doveva avere per errori degli arbitri, poteva avere qualcosa in più. I responsabili degli arbitri vedono le partite e prendono le loro decisioni. Giorgio da Roma, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e di nuovo tanti auguri a grazie a tutti. Anche lei, prego. Una cosa sulla situazione degli stadi italiani, rifacendomi all'ascoltatore di prima, paragonandolo a quelli americani, quello che io sono milanista, diciamo, quello che sarebbe il milanello, diciamo, delle squadre, e negli Stati Uniti, nelle squadre di football americano, per esempio, ce l'hanno tutto nello stadio, cioè hanno la sede della società, hanno gli spogliatoi, i campi di allenamento, tutta la struttura è nello stadio, che è di proprietà della società. È così difficile riuscire a realizzare una cosa simile in Italia per evitare situazioni incresciose tipo stadi ancora sotto sopra del taglia 90, sono passati ormai 22 anni, insomma. Guardi, rifare tutti gli stadi costa miliardi e miliardi di euro, ed è evidente che non può farlo il pubblico e non avrebbe nemmeno senso, e senza una legge sugli stadi che permetta poi di rientrare degli investimenti e magari di guadagnarci, non può farlo nemmeno il privato, quindi non possono farlo nemmeno le singole società. Lei guardi la polemica che è nata a Torino, anche giustificata, sull'ampliamento delle metrature per la cittadella della Juventus. Le dico che entro il 2014 il Manchester City costruirà un intero quartiere con campi di calcio, palazzine, stadio, e nessuno a Manchester ha obiettato nulla. Anche questa è la differenza che ci separa dal resto d'Europa. Grazie Giorgio. Alberto da Modena, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Intanto, prego, auguri. Chiedevo una cosa che non mi torna un po' sulla base di quello che ha detto prima, ma l'anno scorso, alla fine del campionato, il Cagliari non ha giocato diverse partite a Trieste, tra cui mi sembra anche con la Juve, quindi non capisco, dopo sei mesi lo stadio non è più idoneo a queste partite. Grazie, buona giornata. Evidentemente no, Alberto, ma le ripeto, è stata una scoperta anche per me, perché la sede naturale e la prima sede prevista per Cagliari-Juventus è stata Trieste, e c'è stato il veto della questura di Trieste per motivi strutturali dello stadio. Ora, se siano cambiate o no le situazioni in sei mesi io non lo so, può essere che nella primavera scorsa, nell'inverno scorso, fossero stati effettuati degli interventi per permettere al Cagliari di giocare una parte importante della stagione a Trieste, e che ora, con la previsione invece di poter tornare in Sardegna, questi interventi siano stati smantellati. Le dico la verità, non lo so. Quello che so è che il Cagliari è stato evidentemente iscritto al campionato indicando una sede di gioco con uno stadio non in regola, e questa la trovo una vicenda surreale. Giampiero da Roma, buon pomeriggio. Giampiero? Giampiero, abbassi la radio e proviamo a richiamarla. Orazio da Pescara, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Io la chiamo in merito a un'affermazione del giornalista Rai Variale, sentita ieri a Rai Sport. Il giornalista Variale si domandava perché non era stato inquisito anche Quagliarella nelle condanne di Grava e Cannavaro. Praticamente, cioè, io non so se sia normale che un giornalista Rai si metta a dire una cosa del genere, che tra parentesi è falsa, perché Quagliarella non è assolutamente iscritto in nessun registro, è completamente fuori. Cioè, se un giornalista Rai, solo perché è tifoso napoletano, si permetta di chiamare in causa una persona e addirittura di tirarla in ballo in un processo penale. Cioè, questa è una cosa gravissima. Orazio, veramente grave. Orazio, io non ho sentito la frase di Variale, prendo per buono quello che mi dice lei. Mi pare di aver capito però che si stesse riferendo al coinvolgimento eventuale di Quagliarella, e si chiedesse il perché questo non è scattato nel procedimento sportivo e non in quello penale. E io posso soltanto dire che non tutte le persone che sono passate sotto la lente di ingrandimento della Procura federale, alcuni hanno avuto squalifiche, altri se la sono cavati con il patteggiamento, altri ancora invece sono stati assolti, non tutti questi erano necessariamente iscritti in un registro degli indagati da qualche procura, perché a volte per la giustizia sportiva basta molto meno anche per incorrere in comportamenti che possano essere illeciti. Io credo che Variale pensasse questo, poi magari glielo chiederemo. Sentiamo Thiago Silva che ha nostalgia del Milan. Quanta nostalgia hai del Milan? Guarda, tante. Io parlo la verità, io non nascondo di nessuno che Milan mi manca, e Milan sicuramente rimanerà sempre nel mio cuore, perché dopo Fluminense è la squadra che mi hanno fatto vedere per il mondo, no? Quindi possiamo dire che Thiago ha la saudade del Milan, come dite voi in brasiliano. Sì. E anche che vorrebbe tornare in futuro. Guarda, piacerebbe sì, anche perché è una squadra grandissima che è più titolare del mondo, no? È la squadra più titolata del mondo. Andy da Bergamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego Andy, però abbassi la radio. Dica la sua. Sì, abbassalo, grazie. Io volevo intervenire, ma parlando di Zeman. Sì. Non per polemizzare, io sono juventino, lo dico. Sì. Non per quello di Zeman, ma se Zeman dice di non polemizzare per gli arbitri, l'hai già fatto. Con la partita contro il Chievo. Perché sì. Io non, questa è già polemica, anche le sue dichiarazioni oggi in conferenza stampa sono già polemiche, è già polemica. Sì, sicuramente ha voluto mettere l'accento, ha voluto sottolineare, però Andy, lo fanno tutti. Lo fanno davvero tutti, anche Conte l'ha fatto addirittura alla seconda giornata di campionato l'anno scorso. Purtroppo è un vezzo del nostro campionato. Vabbè, io questo volevo dire, no, complimenti per la trasmissione. .800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Però adesso parliamo di pallacanestro, come tutti i venerdì. Io saluto coach Dan Peterson, buon pomeriggio coach. Ciao Giovanni, amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Ci aiuti a capire che senso ha licenziare il vice allenatore di una squadra in crisi di risultati? Well, ovviamente non posso commentare per il semplice fatto che non so, ok? Quindi, quindi preferisco... No, ma come filosofia, perché effettivamente in tanti l'hanno chiesta o qualcuno ha anche scritto... Ovviamente, ovviamente non sapendo non potrei mai dire una parola su questo qui, una cosa... All'interno loro è chiaro, è una cosa inconsueta, ovviamente, però ovviamente che qualcosa lì dentro non quadrava, cioè, questo lo posso dire, mi limito a questo, però più di questo non posso. Ma per mai. Esperienza un vice può essere così importante negli equilibri di uno spogliatoio? Esatto, senza commentare su questo. Senza commentare, è proprio la filosofia della scelta che ci piace approfondire. Io ho avuto la fortuna di aver sempre... degli ottimi vice allenatori e mi hanno aiutato tanto, quindi però sono il primo a dire che proprio è l'intesa fra le due persone che veramente è una cosa fondamentale, proprio io sono stato l'allenatore capo che ho dato molto spazio ai vice allenatori Ettore Zuccheri e Gian McMillan alla Virtus Bologna, Franco Casalini, Guglielmo Roggiani qui a Milano, quindi anche in Cile con Juan Ostojic e Bambi Sanchez, quindi anche a Delaware avevo quattro vice allenatori, quindi anche l'Accademia Navale quando allenavo lì, quindi non so per quale motivo, però ho avuto la fortuna di avere buoni vice allenatori, buoni rapporti, però sono il primo a dire che è il rapporto che conta più di ogni altra cosa e so che ci sono state situazioni in cui c'è stato veramente non un ottimo rapporto fra capo allenatore e vice allenatore. A me non è successo, amen. Cioè, questo vuol dire che non può succedere altrove. E quindi questo significa, noi ovviamente, lo dico per quei pochi che non lo sapessero, siamo partiti dall'esonero di Fabrizio Frates, vice allenatore di Scariolo all'Armani Milano, che ha fatto rumore all'inizio di questa settimana, però ci piace proprio andare oltre, cercare di capire, questo significa che non dobbiamo dare per scontato che il vice allenatore sia un allegato dell'allenatore capo. Noi spesso, ma non solo nel basket, siamo abituati a ragionare così anche negli altri sport, dove c'è un allenatore, il capo allenatore, che si porta dietro il suo staff e il vice solitamente è fedele nei secoli al suo capo allenatore. In realtà il vice allenatore è un professionista con un ruolo importante e quindi se manca chimica, se viene meno qualcosa, può esserci anche un divorzio. Cioè, forse questa è la ragione in questo caso qua. So che la difficoltà che ci possono anche esistere fra un capo allenatore e un vice allenatore in qualsiasi sport, è ovvio che ci sono queste possibilità. Il fattore umano è 100% dello sport è basato sul fattore umano, quindi è possibile. A me non è capitato, però questo non vuol dire che altrove, cioè anche l'anno scorso, due anni fa, quando ho preso in mano l'Armani, avevo Mario Fioretti e Giorgio Valli, quindi due persone con cui io sono andato d'accordo, anche con i miei preparatori atletici, però bisogna avere prima cosa la grande intesa fra le due persone, ovviamente non conoscendo la situazione qui all'Armani, all'Olimpia Milano, non posso passare una sentenza. Sì, non ci va di ragionare per ipotesi, però ci piaceva capire che cosa succede su quelle panchine. Detto questo, quella è stata una mossa, poi sono arrivate le mosse di mercato, adesso c'è il derby contro Varese, che è la squadra sorpresa di questo inizio di stagione. È evidente che anche la società ha dato un segnale a Milano e a questo punto, prima e dopo Natale, ci vorrà una svolta. Yeah, e ovviamente dopodomani qui a Milano contro Varese diventa una partita di grande importanza per l'Armani Milano, lo sanno tutti, okay? Nuovi giocatori, i cambi che sono stati fatti, e questo ovviamente porta pressione su di loro. Invece Varese viene a Milano, niente da perdere, è una bellissima squadra, fra l'altro c'è molto ben messo insieme, tanto per dire, le scelte dei giocatori, la disponibilità dei giocatori stessi di giocare insieme, poi ovviamente lavora lo staff tecnico, quindi Milano avrà un cliente estremamente difficile da affrontare, e anche altre partite, Cantù rimane ancora sul calendario, quindi niente è facile per Milano, però ho avuto proprio la mentalità di dire ok, facciamo i cambi adesso, finito il capitolo Eurolega, e c'è la pausa del campionato, facciamo i nostri cambi, e l'hanno fatto. Sì, il momento, se dovevano essere fatti, il momento era questo. Parlavamo domenica con Vitucci, diceva: nemmeno nel migliore dei sogni avrei mai pensato di venire a Milano con il doppio o quasi dei punti rispetto all'Armani. Questo però credo, coach, sia il bello di questa stagione, dove ci sono Varese, c'è Sassari, ci sono le grandi che in questo momento hanno lasciato spazio. Adesso Siena sta crescendo e vedrai che Cantù cresce ancora, però hai ragione, Sassari, Varese sono realtà, e occhio a Roma e occhio alla Virtus Bologna, ovviamente Milano in questo contesto qua, quindi per me stanno emergendo dopo l'inizio grande la realtà del basket oggi, che le squadre cambiano tanti giocatori ogni anno. L'anno scorso Siena ha vinto 6 scudetti in fila, 6 in fila, 8 giocatori fuori, l'allenatore che va per conto suo, per scelta sua, pianeggiare, va a Fenerbahce, Istanbul, eccetera. Quindi tutti nuovi, ci vuole un attimo, Cantù qualche novità, via Mitzov, altro, qualche momento, Milano qualche novità, ci vuole un momento, ma anche Varese ha avuto la bravura, fortuna, quello che vogliamo, di mettere insieme le cose insieme velocemente. La Virtus sta cercando questo, Roma sta venendo fuori, Sassari l'ha fatta molto bene. Quindi io dico sempre, io voglio sempre aspettare la fine del girone di andata prima di tirare le prime somme. E poi c'è il ritorno, e poi ci sono i playoff, e poi noi non siamo come in America, dove i playoff e la stagione regolare sono quasi due sport diversi, ma certamente qualcosa cambia. E a proposito di NBA, coach Peterson, ti aspettavi le difficoltà di Mike D'Antoni con i suoi Los Angeles? Ha vinto anche qualche partita di fila, però ne sta perdendo tante, evidentemente squadra poco adatta al suo basket. Esatto, lui ovviamente quando tu cerchi di imporre, e dico la parola non come una brutta parola, imporre un sistema o impostare un sistema di gioco anziché come facevo io, fare il sarto della situazione, adattarmi ai giocatori disponibili, ovviamente ci vuole un attimo di tempo, le scelte giuste, magari qualche cambio, però dopo un inizio molto stentato, sono andate a 9 vittorie e 14 sconfitte, ok, c'era una brutta situazione, adesso sono 12-14 e penso che giochino questa sera, quindi ovviamente non sono, come dicono in America, fuori dalla foresta ancora, ok, quindi ci sono anche altri ostacoli da superare, non è perfetta la situazione, ma almeno hanno vinto 3 in fila, vediamo, e non contro squadre forti, ok, molti in casa, cioè proprio soffrendo un punto contro Charlotte, dai, non è una super vittoria, però almeno hanno vinto e hanno detto: ehi, adesso basta vincere, cerchiamo di fare questo qui e poi migliorare. Quindi hanno messo fieno, certo. Grazie, coach. Ok, ciao ragazzi a tutti. Grazie a coach Dan Peterson. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Scrive un amico da casa: se tu dovresti sapere che quando il capo allenatore per vari motivi è intoccabile, il capro espiatorio è sempre il vice allenatore. Però io non ricordo esoneri di un vice allenatore al posto del coach, non li ricordo a Milano nel basket, non li ricordo in generale nel basket e forse anche negli altri sport. Ferdinando da Siena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Mi dispiace che Daniel se ne è andato, e la mia domanda era per ritornare in Europa e all'Eurolega, e volevo sapere se secondo voi Siena può ambire a qualcosa di importante in questa seconda fase ora che si conoscono i gironi. Guardi, credo di sì, però Siena non è riuscita a vincerla l'Eurolega, è arrivata in fondo ma non è riuscita a vincerla anche quando era nel pieno di un progetto, in questo momento certamente non lo è, e quindi è difficile, quest'anno certamente non parte con il progetto forse di vincerla questa Coppa, e quindi io non credo che sia la stagione buona. Adriano da Cagliari, buon pomeriggio. Sì, buonasera a lei. Prego. Niente, io intervengo per il semplice motivo, seguivo la trasmissione, ma la seguo tutti i giorni, ho cose, ho sentito tantissime critiche a Cellino, tra parentesi il giornalista della Stampa che diceva che Cellino crea più problemi della Granja, questa bella cosa, bisognerebbe approfondire dal, la dal, situazione. Dal punto di vista Cellino, però Adriano, poi la faccio continuare, dal punto di vista politico diceva crea più danni della grandine, dopo aver dato atto a Cellino di invece creato con il Cagliari qualcosa che in passato credo a Cagliari aveste dimenticato di poter avere, cioè il calcio di un certo livello. Prego. Certo, certo. Il problema è che questa persona, nel nome del presidente, aveva tutto pronto, comprato terreno, tutto ad Elmas o cosa, con autorizzazioni, badi bene, provincia, regione e amministrazione comunale, dopo tanto interviene, compra la struttura, paga 12 milioni, compra queste strutture prefabbricate e poi viene fuori lo Stato, quello che gestisce gli aeroporti o cosa, e vieta la costruzione. Allora, a Cagliari, con il sindaco di Cagliari che portava di giorno in giorno sempre, un giorno mettiamo a posto Sant'Elia, rimettiamo a posto, non faceva, poi va a Quarto, però non voglio tirarla troppo per le lunghe, mi dovete spiegare semplicemente una cosa, ma scusate, con il Napoli era omologato lo stadio, con il Pescara era omologato, a Trieste non ne parliamo perché succedono le cose e poi oggi si viene a sapere che Trieste non è più in condizione di ospitare la partita, ma perché col Napoli stadio completo non è successa una virgola? E badi bene che sarebbe potuto succedere qualcosa, sa, quando una partita la si perde c'è sempre qualche cretino, ma perché Adriano, evidentemente con la Juventus lo stadio non andava più bene perché poi è in corso un braccio di ferro tra Cellino, il sindaco di Quartu, la prefettura, e quindi evidentemente qualcuno ha scherzato con il fuoco, e io non voglio, perché non so, non voglio dire se sia stato Cellino o il sindaco di Quartu Sant'Elena, so però che a un certo punto la Lega ha dovuto mettere un punto ed eravamo secondo me anche già in ritardo, e poi è arrivata questa autorizzazione due ore dopo, e certamente si poteva anche fare il bel gesto di tornare indietro, però io credo che un'organizzazione seria a un certo punto debba anche mantenere le decisioni che ha preso. Grazie, però sentiamolo Cellino. C'è stata un'agibilità, un'autorizzazione comune di quanto data in ritardo. La Lega aveva dato già un comunicato ufficiale dove stabiliva il campo di Parma. Per cambiare quella destinazione ci voleva a quel punto la disponibilità dell'altra squadra, che era Juventus. Non l'ha data, nel suo diritto non darla, e non l'ha data. Alle 3 sanno che si gioca a Parma, alle 5 e mezzo dicono che non è più possibile giocare a Cagliari. Ne prendiamo atto, augurandogli la giustizia del Dio del calcio. Io sono 21 anni presidente del Cagliari. Insistere con la Lega e andare a fare il braccio di ferro con la Juventus affinché dovesse venire a Cagliari, quando noi l'anno scorso con 20 ore di preavviso abbiamo spostato la partita a Trieste con la Juventus dalle 3 di pomeriggio alle 9 di sera, rimborsando 6.000 biglietti e causando dei danni incredibili ai nostri tifosi, annullando voli charter e pagando per lei, l'abbiamo fatto. In questo caso, pur essendo colpa delle nostre istituzioni, non del Cagliari, ci sono state 3 ore di differenza, la Juventus non è voluta venire. Questo Cellino, appuntamento con lo sport domani a Tempo di Sport, ore 17. Merry Christmas to all Manchester City fans and thank you for your support.